si può presentare? Ok, allora mi chiamo Sandra Di Carlo e vivo qua a Folgaria da tantissimi anni, non sono nata a Folgaria, prima abitavo a Bologna e sono arrivata su per lavoro, un lavoro che non è quello che svolgo attualmente ma che ho avuto la possibilità di fare a Rovereto e quindi poi venire ad abitare a Folgaria. Mi occupo di digital e di web marketing, mi occupo di quelli che voi amate, i social tutti i giorni, quindi pubblicazioni su TikTok, su Instagram, tutte quelle cose che vi divertono e sono felice molto del lavoro che svolgo. Si vive di sogni? Allora, i sogni ci aiutano a visualizzare quello che vogliamo fare, quello che più ci piace e riuscire a realizzarli, se non in tutti i dettagli, significa vivere meglio, vivere bene, li possiamo perseguire, dobbiamo avere tenacia, dobbiamo avere anche chiaro quello che è il sogno, che non è solo idealizzare qualcosa, ma anche pensare se la mia vita, come la vostra vita, sarà comunque piena di lavoro, di un'attività, che cosa effettivamente mi rende felice. Ci sono tante, tantissime attività che si possono fare, che voi siate ragazze, ragazzi, e in questo, in termini di parità, non ci sono differenze, tutti abbiamo dei sogni. Bisogna solo cercare di capire come questo sogno davvero possa essere realizzato, facendo anche presente che i sogni a volte sono anche tanto larghi, cioè dobbiamo un po' ricondurli a quello che è possibile, però dobbiamo perseguirli perché è quello che ci permette di essere felici. Come è iniziato la sua attività? Allora, innanzitutto studiando dai vostri banchi, poi al liceo, poi all'università, poi con delle specializzazioni e formandomi sostanzialmente tutti i giorni, perché ancora oggi, lavorando da tanti anni, continuiamo a fare formazione tutti i santi giorni. Poi, come vi ho detto, mi occupo di un lavoro che è fortemente in evoluzione. Voi siete giovani, ma alcuni social, anche di cui abbiamo parlato prima, non esistevano fino a qualche anno fa e noi invece dobbiamo imparare a gestirli, a conoscerli tutti i giorni. Quindi tanto studio relativo a quello che erano le cose che mi interessavano e che mi piaceva fare, e poi dopo mettersi in gioco in ambito lavorativo. Non ho trovato subito il lavoro che rappresentava il lavoro dei miei sogni, perché comunque sapevo che avrei dovuto costruire, avrei dovuto imparare anche lavorativamente le cose che avrei voluto poi fare da sola. Quindi ho intrapreso un lavoro, poi ne ho intrapreso un altro, ho cercato di crescere, di imparare sempre più cose dalle aziende dove lavoravo. Ma sappiate che oggi mi occupo di digital, ma ai primi anni di università ho fatto anche la stagione come cameriera, che io consiglio a tutti perché sono quelle attività che ci aiutano davvero a formarci, a vedere un po' tutto il mondo, perché per arrivare a fare delle cose anche più complesse bisogna farle tutte le attività, bisogna mettersi nei panni di tutti. Quindi tanta formazione e tanta attività. Quali sono state le aspettative? Allora, in ogni lavoro, anche i più piccoli, le aspettative erano quelle di imparare al meglio e di portarmi a casa tutte le potenzialità di quel lavoro. Ogni azienda, ogni persona che ho incontrato nei vari lavori mi ha trasmesso delle informazioni importanti, spero di averne trasmesso anch'io a loro. Cioè, quello che dico, qualsiasi lavoro si svolga nel frattempo finché riusciamo a realizzare i nostri sogni, sono lavori che devono lasciarci delle capacità, e le aspettative erano sempre queste, quelle di portare a casa il più possibile tutte le informazioni, tutto il bello e anche il brutto, perché a volte impari anche da brutte esperienze, leggerle e tradurle e farle proprie per imparare e non sbagliare più. Cosa significa aprire questo tipo di attività essendo donna folgaria? Allora, questa è una bella domanda. Ogni tipo di attività, la mia attività è un'attività digital, fortemente, come dire, nuova, anche se io la esercito da tantissimo tempo, quando non si parlava ancora di web marketing, ma aprirla come donna oggi io ritengo non sia poi così tanto difficile rispetto al passato, perché se hai competenze, se hai studiato, se è quello che desideri, se cerchi di diventare veramente bravo nel tuo lavoro, non c'è differenza tra un uomo e una donna, bisogna avere la forza, la volontà. Quello che ho visto in un ambiente come Folgaria o come in paesi piccoli, e questo lo dico soprattutto alle ragazze, ma non faccio distinzione di genere perché è molto importante che anche i ragazzi sappiano questo, che a volte le difficoltà più grandi non arrivano dal mondo del lavoro, ma dalla vita privata. cioè coniugare la vita matrimoniale, i figli, in un ambiente dove tante volte la donna viene vista ancora come quella che comunque deve fare un lavoretto minimo perché è il marito che lavora di più. Questa è la difficoltà probabilmente più grande. E cioè, bisogna che voi ragazzi capiate che ognuno di noi, che si tratti di una ragazza, di un ragazzo, tutti noi abbiamo la possibilità di svolgere il lavoro dei nostri sogni, di aprire un'attività anche impegnativa, e questo non deve essere un distinguo perché io sono un uomo o sono una donna, deve essere solo relativo alle capacità che ognuno ha e alla voglia di fare e di riuscire. Quindi bisogna veramente esigere il massimo rispetto dal marito, dalla moglie, dalla compagna, dal compagno, da tutto quello che sarà la vostra vita privata, così come dai figli. Perché questo è fondamentale, anche voi nelle vostre famiglie sentirete a volte, voglio dire, tutti viviamo, siete grandi adesso e si avverte in casa a volte il clima difficile di avere dei genitori che lavorano entrambi, no? È molto importante capire che nel tempo bisogna davvero vedere le due realtà, mamma, papà, uomo, donna, come sullo stesso piano, perché è così. Quindi non è difficile aprire un'attività, è gestirla nel rispetto della famiglia, dei figli e tutto, e nell'approvazione di chi ti sta incontro. Questa è la cosa più difficile. Su questo voi potete fare la differenza, voi maschietti e voi femminucce tutti, perché come studiamo qua tutti i giorni insieme, possiamo lavorare tutti i giorni insieme facendo quello che ci riesce meglio. Come ha inciso il fatto di essere una donna sulle due scelte di vita? Mi riallaccio un po' a quello che vi ho detto prima. Non ho mai fatto un distinguo onestamente sul fatto di essere donna, uomo. E prima di aprire la mia attività, per conto mio, ero comunque un quadro dirigente, che vuol dire il massimo livello a cui puoi aspirare in un'azienda. E devo dire che allora, che comunque ero molto giovane, era difficile trovare delle donne al mio stesso livello. Nel 2000 io ho fatto il mio ultimo lavoro come dipendente ed ero primo quadro dirigente. Era un periodo in cui difficilmente trovavi, cioè chi si relazionava con me non era quasi mai un'altra donna, erano quasi tutti uomini nello stesso livello. Io non ne ho mai avvertito la difficoltà, devo dire, perché sono comunque una persona forte, comunque ho sempre, e questo veramente ve lo auguro, sempre saputo quello che volevo. E la determinazione aiuta anche quando sbagli, perché quando sbagli, se l'hai deciso tu quel percorso, dopo puoi tornare indietro e correggere. Se invece l'ha deciso qualcun altro, non sai perché hai sbagliato, ok? Quindi sapere che cosa si vuole e cercare di farlo al meglio aiuta sia a fare delle cose buone che a fare delle cose cattive, ma a correggerle, ok? Quindi diciamo che il fatto di essere donna è stato più complicato finché ero dipendente in un'azienda, molto meno quando ho deciso di aprire un'azienda mia, perché chiaramente, come dire, il capo di me stessa sono io, quindi e cerco di esercitare, anche perché non lavoro da sola, ho dei dipendenti che lavorano da me, ci sono delle ragazze, ci sono dei ragazzi e tutti sono bravissimi, devo dire, perché ho un bellissimo team di ragazzi, alcuni sono anche di Folgaria, quindi abbiamo un rapporto molto, come si può dire, friendly, cioè nel senso che non esiste una gerarchia serrata da noi. Dimmi pure. Ma dov'è che è la sede? Allora, anche questo è un argomento molto attuale. Noi abbiamo una sede, due sedi a dir la verità operative. Una è a Trento e una sarebbe qua a Folgaria. Dico sarebbe perché dalla pandemia, che chiaramente tutti conoscete, voi avete fatto la DAD, noi siamo passati in smart working. Il mio lavoro è un lavoro che da sempre si poteva svolgere a distanza. Io posso lavorare ovunque io voglia, basta che ho un computer con me e lavoro in ogni dove. Quindi i miei dipendenti ci vediamo in ufficio a Trento ogni tanto quando ne abbiamo bisogno, ma siamo sempre tutti collegati online, ognuno da casa propria. E viviamo in un posto fantastico. Vi assicuro che quando vado a Milano una giornata intera, quando torno su, pur non essendo folgaretana, nata a Folgaria, ma respiro, c'è cioè questa pace, questo silenzio. Quindi io mi reputo fortunatissima di poter vivere e fare il lavoro dei miei sogni qui. E quindi non vedetela come nel momento in cui ho un sogno particolare devo per forza andare via. Assolutamente lo possiamo realizzare qui senza privarci di nulla. Ecco. Quali le strategie che ha messo in campo? Allora, le strategie che ho messo in campo per arrivare ad ottenere risultati sono state strategie legate a rendermi conto di che cosa aveva bisogno il mercato a cui mi rivolgevo, cosa vuol dire. Le strategie sono state quelle di fare formazione per mettere nelle condizioni i potenziali clienti di capire quello di cui stavamo parlando e dopodiché vedere come aiutarli sul mercato e quindi impostare tutta una serie di comunicazioni che 10 anni fa funzionavano, oggi sono già diverse perché, come vi dicevo prima, il mondo in cui lavoro è in continuo mutamento. Quindi essere anche tanto flessibili, questa è un'altra strategia. Stare sempre attenti a come si evolvono le cose, i mezzi, gli strumenti. C'è un messaggio da dare ai ragazzi? Cercate di focalizzare il vostro impegno, ma con veramente con tanta dedizione, in quello che vi piace, perché ci sono delle cose che vi piacciono nella vostra vita, le cose che vi vengono più naturali, a chi piace scrivere, a chi piace suonare, a chi piace disegnare, a chi piace comporre, creare, perché ognuno di noi ha delle predisposizioni e delle cose che gli fanno piacere, quindi inseguite questi sogni, cercate di mettercela tutta, poi nel frattempo potete accettare anche degli altri lavori, perché come vi ho detto prima, tutto insegna, per arrivare a fare quello che ci piace dobbiamo acquisire tantissime informazioni e non è solo quello che ci piace, perché poi nell'attività si fanno tante cose, anche cose che ci piacciono un po' meno, però le dobbiamo fare lo stesso. Quindi inseguite i sogni intesi come le cose che più vi piacciono e perché in quelle sicuramente riuscirete, senza porvi dei limiti perché viviamo qua, perché siamo in montagna, perché siamo distanti dalla mega città. Qui abbiamo le stesse possibilità, forse anche di più, di quelle che hanno quelli che hanno in città, che vivono nelle grandi città.